come sono geniali gli americani. Te la mettono lì, la libertà, e alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è sta sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. Libertà non è uno spazio libero, libertà e partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare, che passa la sua vita a delegare e nel farsi condannare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. Libertà non è uno spazio libero, libertà e partecipazione. All together. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà e partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo e convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà e partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà